Buongiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il TAR accoglie il ricorso di Davide Vannoni, sospeso il decreto di nomina della commissione che ha giudicato Stamina. Secondo il tribunale ci devono essere anche esperti che non si siano espressi o siano favorevoli al metodo. La Coldiretti protesta contro la contraffazione alimentare e a favore del Made in Italy, bloccando camion al Brennero. Stoppa la concorrenza sleale, dice l'associazione. A Prato oggi lutto cittadino, mentre Natuzzi denuncia sfruttamento e schiavitù anche nel distretto del Mobile Pugliese, con una pagina sul Sole 24 Ore. Tra poco, ospite di Effetto Giorno. La legge di stabilità arriva alla Camera, pronta una risoluzione per chiedere che i soldi della Spending Review vengano destinati al taglio delle tasse sul lavoro. Terra dei Fuochi, il giorno dopo il decreto, intervista a Don Maurizio Patriciello. Non è la fata turchina, dice, ma è un primo passo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno. Se volete commentare in diretta questa puntata della trasmissione, lo potete fare su Twitter con l'hashtag Effetto Giorno, oppure scrivendomi su Twitter, mi trovate Simone Spezia, o via SMS come sempre al 349-238-6666. In apertura di questa edizione parliamo del metodo Stamina, perché è arrivata la sentenza del TAR. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, una notizia che di fatto riaccende le speranze di molti malati, a torto o a ragione, questo ovviamente dovrà ancora essere stabilito. La notizia è che il TAR del Lazio ha di fatto sospeso la bocciatura del metodo, accogliendo il ricorso di Davide Vannoni, fondatore del metodo Stamina, invitando il Ministero della Salute ad una istruttoria approfondita sul metodo. In sostanza i giudici amministrativi hanno bloccato il decreto di nomina della commissione del Ministero della Salute che ha bocciato il metodo. Di conseguenza è sospeso anche il parere contrario alla sperimentazione. Stamina Foundation, lo ricordiamo, contestava davanti al TAR la composizione di questa commissione che appunto ha bocciato la sperimentazione, sostenendo che gli esperti non fossero stati imparziali, che alcuni membri si fossero espressi contro il metodo prima ancora di essere nominati. Ed è per questo che nella sua ordinanza il Tribunale indica la necessità che ai lavori del comitato scientifico partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla questione non abbiano già preso posizione, e se questo non è possibile, essendosi tutti gli esperti già esposti, che siano chiamati anche coloro che si sono espressi in favore. Per ora nessun commento dai membri del comitato né dal Ministero della Salute, ma intanto dagli Stati Uniti arriva un'altra notizia a sostegno della Stamina Foundation: il metodo sarà testato anche a Miami. E per ora è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Noi, prima di andare al Brennero, stiamo cercando di collegarci, ma evidentemente c'è qualche problema con i telefoni, con la Coldiretti che sta protestando e sta bloccando dei camion. Andiamo a fare il punto sulla manovra, tra l'altro dopo le polemiche di ieri tra il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn e il presidente del Consiglio Enrico Letta. Allora, cerchiamo di fare un punto in breve con Vincenzo Miglietta, poi ci collegheremo, anzi abbiamo già in linea il collega del Sole 24 Ore, Marco Rogari, che ci aiuterà ad approfondire che cosa significa questo passaggio alla Camera, che cosa potrà rappresentare per la legge di stabilità. Vincenzo, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Iter della legge di stabilità che si incrocia con le polemiche innescate dai rilievi alla politica del governo italiano sul fronte del risanamento dei conti pubblici lanciati dal commissario europeo Rehn, attacchi che da Bruxelles vengono ridimensionati a semplici preoccupazioni relative alla manovra, viste le tante esperienze passate in particolare in materia di privatizzazioni. In questo clima il presidente del Consiglio Letta incontrerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi il presidente dell'Unione Van Rompuy, ma il premier, oltre a difendere la legge di stabilità, preme perché la maggioranza lo sostenga nel dare segnali forti e in tempi rapidi sul fronte economico. Due i capitoli: la fiscalità sul lavoro, si punta allora ad incrementare il cuneo fiscale da una parte aumentando le risorse per il taglio delle tasse e dall'altro istituendo un fondo alimentato dalle risorse della Spending Review e della lotta all'evasione fiscale, vincolando gli introiti all'ulteriore taglio del cuneo già nel 2014. L'altro capitolo è quello dell'IMU. L'esecutivo starebbe cercando di venire incontro alle lamentele di Confcommercio e Confindustria contro l'aumento degli anticipi IRES ed IRAP, contestualmente risolvere il pasticcio della mini rata IMU di gennaio. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi restiamo collegati con Roma e con Marco Rogari, che innanzitutto saluto. Buongiorno Marco. Buongiorno agli ascoltatori. Voglio capire da te, l'altra volta quando abbiamo parlato del passaggio al Senato della legge di stabilità si è detto è tutto in attesa del Consiglio Nazionale del PDL che poi ha sancito di fatto la scissione del partito con la formazione del nuovo centrodestra. Adesso quanto del destino di questa legge di stabilità, almeno in questa settimana, è legato alle primarie del Partito Democratico? Beh, sicuramente incideranno molto. Parlavate dell'IMU e l'IMU sappiamo quanto pesa il partito dei sindaci e nel partito dei sindaci tra virgolette incidono molto i renziani. Altra questione è quella dell'utilizzazione delle risorse che dovranno arrivare ad esempio dalla spending review. Renzi ha delle sue idee, mentre in questo momento alla Camera si sta votando una risoluzione, per votare una risoluzione che, come avete detto, dovrebbe vincolare i risparmi della spending review in toto già dal prossimo anno alla riduzione della tassazione sul lavoro. I renziani premono affinché ci sia una gestione diciamo un po' diversa di questa spending review, fermo restando che anche loro sono d'accordo per ridurre le tasse sul lavoro, quindi sicuramente inciderà. Il problema sono i tempi molto stretti, la Camera dovrebbe mandare il testo in aula attorno al 17-18 dicembre e quindi si rischia di condensare il tutto in 2-3 giorni, come peraltro è già accaduto. Anche perché poi deve ripassare al Senato, perché probabilmente ci saranno modifiche. Ci spieghi una cosa, Marco, anche per gli ascoltatori, dato che si parla per questa possibilità di destinare, come tra l'altro da richiesta di Confindustria e delle parti sociali, i soldi della spending review al taglio del cuneo fiscale, e questa è una risoluzione proposta da Francesco Boccia, che valore ha una risoluzione in quest'ambito? La risoluzione diciamo impegna il governo ad agire su questo versante, ma alla risoluzione seguirà sicuramente un emendamento che sarà presentato o dal relatore Maino Marchi del PD o dallo stesso governo per, come posso dire, definire il funzionamento del fondo, perché questo fondo sarà un fondo automatico, quindi automaticamente le risorse della spending review, come abbiamo detto, dovranno andare alla riduzione del fondo, ci dovranno andare almeno in parte, dovrebbe essere la percentuale, anche quelle derivanti dalla lotta all'evasione. E quindi ci sarà un emendamento che darà operatività almeno in parte a questa risoluzione, che però ha un suo peso perché obbliga il governo a indicare nel prossimo DEF, il documento di economia e finanza che verrà presentato in primavera, con esattezza, con precisione, con chiarezza quanto dovrà essere ridotta la spesa e quanto si dovrà ridurre la pressione fiscale. Grazie Marco Rogari per questi aggiornamenti che trovate ovviamente quotidianamente tanto sul sito del Sole 24 Ore quanto sullo stesso quotidiano, sul quotidiano di carta. Passiamo adesso a sentire il commento di Stefano Folli di oggi, che è un commento dedicato allo scontro che c'è stato ieri tra Ren e Letta. Il punto di Stefano Folli. La risposta offesa di Enrico Letta alle critiche brutali del commissario Ren era inevitabile, soprattutto per quel termine scetticismo e quel tono altezzoso con cui il rappresentante dell'Unione ha condito i suoi giudizi sulla politica economica del governo italiano. Ha ragione Romano Prodi quando si domanda se tutta questa severità Ren la riserva anche ad altre capitali, magari anch'esse poco virtuose e tuttavia assai più forti e influenti al tavolo dell'Europa. La risposta implicita è no. La severità del giudice è inversamente proporzionale alla debolezza del giudicato. Detto questo, però, bisogna anche domandarsi se sul punto specifico, la riduzione del debito, noi abbiamo fatto tutto quello per cui ci eravamo impegnati. Le cifre dicono che siamo assai lontani dagli obiettivi imposti dalle regole europee. Le possiamo contestare quelle regole, ma finché esistono dobbiamo rispettarle, oppure non rispettandole dobbiamo subire le critiche, tanto più insolenti quanto meno contiamo nel concerto europeo a causa dei tanti problemi insoluti. Veniamo adesso alla legge elettorale, c'è ancora incertezza su quello che succederà in merito, soprattutto su quello che deciderà la Consulta, la Corte Costituzionale. Ancora non è chiaro se verrà rinviato tutto a gennaio o se una decisione forse potrebbe arrivare anche oggi. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, dalle 9.30 di questa mattina i 15 giudici della Consulta sono di nuovo in Camera di Consiglio, in giornata potrebbe arrivare la loro pronuncia sulla legge elettorale, sull'attuale legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, però lo dicevi, non è escluso un rinvio alla prossima udienza, la data è stata già fissata il 14 gennaio, perché sappiamo che per allungare i tempi basta che uno di loro, uno dei giudici, chieda un approfondimento sui temi che sono stati sollevati nel ricorso, lo ricordiamo, presentato da 27 cittadini, secondo i quali alcuni aspetti del Porcellum sarebbero incostituzionali, in particolare il premio di maggioranza e le liste bloccate. Oltre al rinvio che resta possibile, gli scenari oggi possibili sono diversi, il ricorso potrebbe anche essere dichiarato inammissibile oppure essere accolto in tutto o in parte. Comunque possiamo dire che comunque vada, l'attesa di questa pronuncia sembra aver in qualche modo smosso la politica dopo mesi di stallo sulla legge elettorale, perché secondo indiscrezioni almeno il candidato alla segreteria del PD Renzi sembra che ieri abbia raggiunto un accordo con il premier Enrico Letta, un accordo sulle riforme che prevede da un lato l'abolizione del Senato e dall'altro una nuova legge elettorale ispirata a quella francese, quindi con un doppio turno di collegio. Staremo a vedere, per ora ti restituisco la linea, Simone. Grazie Andrea, staremo a vedere, e finché non vediamo non crediamo, perché sulla legge elettorale insomma si è andati avanti un po' a lungo. Dice il ministro Anna Maria Cancellieri, rispondendo ai cronisti che le chiedono se non ritenga di aver perso la sua credibilità dopo il caso Ligresti, dice: ognuno la pensa a modo suo, io penso di no. Dichiarazioni arrivate poco fa, nel giorno tra l'altro nel quale si apre il processo su Fonsai. Filomena Greco, le novità, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Si è aperto poco dopo le 9.30 di questa mattina il processo Fonsai, quello con rito immediato a carico di Salvatore Ligresti, l'ex patron del gruppo assicurativo che ha scelto comunque di non essere in aula questa mattina, e contro gli ex top manager Fausto Marchionni, Emanuele Erbetta e Antonio Talarico. I protagonisti della mattinata in realtà sono stati i risparmiatori, cioè quelli che investendo in azioni Fonsai nel periodo 2009 ma soprattutto 2010 sono diventati piccoli azionisti del gruppo e hanno riportato ingenti perdite. La Procura di Torino in fase di indagine, lo ricordiamo, ha quantificato in oltre 250 milioni di danni provocati agli investitori dalla gestione del gruppo e soprattutto dalle mancate riserve per i sinistri. I reati contestati sono infatti falso in bilancio e manipolazione di mercato. Più di 1.500 dunque questa mattina gli azionisti che si sono costituiti parte civile in questo processo attraverso la mediazione dei diversi movimenti di tutela dei consumatori. E lo hanno fatto anche Consob, Mediobanca, Unicredit e l'attuale board di Fonsai. La prossima udienza ora è programmata per il prossimo 13 dicembre, nelle prossime settimane si capirà se il processo che si è aperto oggi confluirà in un secondo procedimento in capo al Tribunale di Torino, ma con rito ordinario, questa volta a carico di Paolo Ligresti, degli ex sindaci del gruppo, dei revisori e dell'attuario, per i quali la Procura ha comunque chiesto anche per loro il rinvio a giudizio. Un terzo filone per concludere ancora riguarda il patteggiamento ottenuto da Giulia Ligresti, una pena di 2 anni e 8 mesi, e quello invece è ancora soltanto richiesto da Ionella Ligresti, 3 anni e 4 mesi, che sarà invece discusso il prossimo 19 dicembre. Grazie Filomena Greco. E siamo finalmente in grado di collegarci con il Brennero e con Rolando Manfredini, che è responsabile qualità di Coldiretti. Come va? Fa freddo? Ma no, freddo diciamo che è calato, meno male, in questi giorni. Siamo su una temperatura accettabile, intorno agli 0 gradi. Comunque. 0 gradi, ma quanti camion state bloccando? Quanti ne avete bloccati, Manfredini? Beh, adesso ne abbiamo già bloccati quasi un centinaio di camion, quindi una cosa piuttosto interessante. Ma tutti che trasportavano alimentari, perché? Beh, sicuramente il Brennero è un po' il passo simbolo dove i prodotti agroalimentari provenienti dagli altri stati, ma soprattutto dalla Germania, entrano in Italia, quindi è un fiume di prodotti di cibo che entra in Italia, fabbricato ovviamente in altri paesi, costruito in altri paesi, poi quando passa il Brennero diventa italiano. Diventa italiano in che senso? Beh, nel senso che ad esempio abbiamo fermato camion con prosciutti dove il marchio di provenienza non era neanche per legge, e questo è un po' anche una frode, ogni prosciutto deve essere marchiato. Abbiamo trovato dei prosciutti che non erano assolutamente marchiati, e quelli che erano marchiati non avevano l'inchiostro indelebile, non erano impressi a fuoco. Va da sé che nel momento stesso in cui qualcuno lo lavora in Italia, ci mette sopra un bel marchio italiano, il consumatore pensa di consumare un prosciutto italiano, che italiano evidentemente non ha nulla. Fino a quando rimarrete al Brennero? Rimaniamo oggi tutto il giorno e anche domani tutto il giorno. tengo a precisare che assieme al Brennero abbiamo fatto una manifestazione a Reggio Emilia proprio di allevatori, e domani al Quirinale. Domani sarete al Quirinale? Piazza Montecitorio. Non bloccate il traffico al Quirinale, là però non ci sono camion con prodotti alimentari da bloccare, no? Ma camion forse no, ma forse dei prodotti sì, perché guardate che questa è una cosa che ha dell'incredibile, vedere per credere, prima sentivo qualcuno che lo diceva nella vostra trasmissione, vedere per credere, se pensiamo che noi importiamo in Italia 57-58 milioni di cosce di prosciutto, praticamente un prosciutto per ogni italiano, due prosciutti su tre significa che non sono italiani. Ma mi spieghi, ma sono prosciutti già fatti o la lavorazione avviene in Italia? Perché sono cosce fresche, ovviamente, oppure congelate, che vengono poi successivamente lavorate in Italia. Possono diventare. Però, mi scusi, Manfredini, ma il valore aggiunto non è la lavorazione in questo caso, cioè è il saper fare italiano, è il saper fare il prosciutto, poi la coscia da dove arriva, chi se ne importa. Ma saper fare il prosciutto bisogna che prima di tutto saper fare la materia prima. Guardi che ci sono delle differenze fondamentali tra la nostra materia prima e quella proveniente da altri stati. Magari in qualche stato ce n'è anche di migliori, no? Va benissimo, se ce l'ha di migliori tanto meglio. Io ci credo poco, perché i disciplinari che noi utilizziamo in Italia dal punto di vista per esempio dell'alimentazione sono disciplinari rigidissimi, che non prevedono per esempio di dare al maiale i sottoprodotti, come invece avviene in Danimarca, in Olanda e in Germania, che ovviamente sfruttando il fatto che il maiale sia onnivoro gli danno da mangiare tutto, tant'è che da questo punto di vista abbiamo anche assistito a degli inquinamenti proprio di carne di maiale, che riportavano per esempio diossino, riportavano grassi che non erano ovviamente consentiti dalle leggi, e quegli scandali che si sono successi non sono successi in Italia ma sono successi proprio in questi paesi. Senta, c'è un ascoltatore che ci scrive via SMS e dice: non si bloccano le strade i camion, andate a protestare dove serve, appunto magari domani a Montecitorio, ma là c'è gente che lavora, insomma, che passa col camion e deve lavorare, no? Benissimo, io rispetto qualsiasi tipo di opinione, ma bloccare i camion significa far vedere cosa c'è dentro i camion, e questo è legittimo da parte delle forze dell'ordine che sono coinvolte in questa operazione. Non le apre mica col diretti, le apre le forze dell'ordine che sono depositate a fare i controlli, quindi i camion vanno controllati. Qui noi rendiamo solo evidente che cosa c'è dentro, che cosa succede. Grazie a Rolando Manfredini, responsabile qualità di Coldiretti, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata, ci fermiamo per la viabilità, appunto, proprio a proposito di Brennero. Ci ritroviamo tra un attimo, parleremo con Pasquale Natuzzi, che oggi ha scritto una lunga lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e pubblicata dal Sole 24 Ore, nel quale dice: attenzione, stiamo guardando Prato, ma anche nel nostro distretto, quello del mobile e del divano in Puglia e Basilicata, succedono cose simili. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il TAR accoglie il ricorso di Davide Vannoni. È stato sospeso il decreto di nomina della commissione che ha giudicato Stamina. Il ministero è appena intervenuto dicendo che nominerà un nuovo comitato scientifico di esperti per una nuova valutazione del protocollo. La Coldiretti, lo avete appena sentito, protesta contro la contraffazione alimentare e a favore del Made in Italy, ha bloccato camion al Brennero, stoppa la concorrenza sleale, dice l'associazione. La legge di stabilità arriva alla Camera, pronta una risoluzione per chiedere che i soldi della spending review vengano destinati al taglio delle tasse sul lavoro. Terra dei Fuochi, il giorno dopo il decreto, intervista a Don Maurizio Patriciello, non è la fata turchina, dice, ma è un primo passo. E noi vogliamo tornare adesso sulle vicende di Prato. Un altro ascoltatore ci ha scritto via SMS proprio un attimo fa, dice: sono di Prato, aiutateci, un se ne pole più. Però non c'è solamente Prato, perché oggi con una lettera pubblicata dal Sole 24 Ore, Pasquale Natuzzi ha comprato una pagina per scrivere questa lettera, ma indirizzata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha detto sostanzialmente: attenzione, stiamo guardando Prato, ma nel distretto del mobile e del divano e dell'imbottito in Puglia e Basilicata, di Puglia e Basilicata, succedono sostanzialmente le stesse cose. Pasquale Natuzzi, amministratore delegato di Natuzzi, in linea con noi, buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa succede là? cosa succede? Succede che l'industria del salotto, che si era sviluppata con il distretto più grande d'Europa per la produzione dei divani in pelle, prevalentemente con 14.000 addetti e 520 aziende, nell'ultimo quinquennio è stato decimato, non c'è più nessuno. Però ecco, non è che non c'è più nessuno, la produzione è stata sostituita da altri imprenditori che sono extracomunitari, diciamo, ma prevalentemente di nazionalità cinese, che producono per i marchi che esistevano, che a loro volta hanno messo in cassa integrazione o licenziato con peripezie certamente non del tutto pulite o legali, hanno messo in cassa integrazione gli operai e affidano la produzione a queste aziende, che aprono e chiudono dopo 12-14 mesi, in maniera tale che in questa maniera gli viene a costare molto meno della metà praticamente il prodotto. Tra l'altro, tra l'altro ci scrive un altro ascoltatore, dice: triangolo della sedia in Friuli, stessa situazione di Prato, quindi evidentemente la situazione, il problema si sta evidentemente diffondendo, e le condizioni di questi terzisti Natuzzi sono praticamente quel che lei ha scritto e ha fatto capire, le stesse condizioni di schiavitù vera e propria che abbiamo visto a Prato. No, guardi, non sono terzisti Natuzzi, noi abbiamo solo fabbriche. No, non ho detto terzisti Natuzzi, i terzisti di cui parla, virgola, no, lei Natuzzi, questo certo, sto dicendo. Certo. No. Allora, i terzisti, le aziende che producono per questi marchi, che poi esce Atodax, Poltrone e Sofa, io li ho già denunciati, guardi, perché non è che ci dobbiamo nascondere, praticamente questi marchi fanno produrre, non solo, poi c'è Calia, c'è Nicoletti, tutti i marchi fanno produrre a questi terzisti che in condizioni di schiavitù, e praticamente loro riescono è il modello di business che hanno scelto, e riescono a vendere prodotti a prezzi molto più bassi, e riescono ad avere budget pubblicitari del calibro di 35 milioni di media spending per anno. Noi invece non sappiamo da dove andargli a prendere questi soldi, a noi ci è rimasto solo la legalità e la trasparenza. E lei dice, proprio per questo motivo, per questa concorrenza, che è una vera e propria concorrenza sleale all'interno dello stesso territorio, io sono stato costretto a fare degli esuberi. Esattamente, signore. In che dimensioni? 1500 persone, no? Mi sembra. Noi oggi abbiamo praticamente 3250 dipendenti e 1526 per l'esattezza li abbiamo dichiarati come esubero strutturale, ma comunque abbiamo raggiunto un accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e anche con i sindacati nazionali, e ci stiamo impegnando a reindustrializzare praticamente il territorio per dare lavoro a queste famiglie. Però purtroppo noi da soli non possiamo combattere, non ce la faremo, guardi, se non c'è un intervento da parte del governo, da parte delle istituzioni, noi non ce la possiamo fare, perché questi signori che io già ho nominato, e loro praticamente stabiliscono un benchmark, stabiliscono, quello è il prezzo praticamente. Quindi quelle aziende che lei ha citato, di fatto, secondo lei, sono criminali? Ma guardi, loro stimolano la criminalità, io non voglio dire questo, stimolano la criminalità attraverso sottopagando, schiavizzando praticamente le persone che lavorano in condizioni disumane, e poi il tutto si traduce in lavoro nero, in evasione fiscale, e da lì poi arrivare alla delinquenza non ci vuole molto, guardi. Però, come dire, se stimolano la criminalità e lo fanno consapevolmente, ma guardi, no? Le devo dire un'altra cosa, guardi, che il sindaco di Matera, quando io ho chiaramente detto a lui, al sindaco di Matera, denunciando questo fenomeno, perché noi abbiamo dipendenti a Matera, noi abbiamo stabilimenti a Matera, loro minimizzano, dicono che il fenomeno non esiste. ma è così, perché evidentemente fa comodo. Sollevare, fare chiarezza sulla verità fa male, è vero, però guardi, se non vengono fuori i problemi, se gli italiani e l'Italia non prende il coraggio con due mani a capire veramente dove sono i problemi e risolverli con l'etica, con la trasparenza e con grande forza e coraggio, ma noi diventeremo veramente, guardi, talebani in questo paese. Questa è la verità. Grazie a Pasquale Natuzzi, amministratore delegato di Natuzzi, per essere stato con noi e per il suo racconto di quello che succede in quella zona. Anzi, se volete scrivermi su Twitter, anche chi ci scriveva il triangolo della sedia in Friuli, mi trovate, Simone Spezia, raccontateci anche queste storie, perché magari ci torneremo su tutto questo. Grazie Natuzzi, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Allora, adesso passiamo alla Sardegna. Abbiamo deciso di dedicare, come sapete, un appuntamento quasi ogni giorno, quando naturalmente ce la facciamo, quando i tempi lo consentono, per non lasciar sola la Sardegna che ha subito l'alluvione. E ospitiamo un sindaco al giorno, Dionigi De Ledda, sindaco di Orgosolo, provincia di Nuoro. 470 mm d'acqua nell'alluvione. De Ledda, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Com'è la situazione oggi? Ma oggi è una giornata di sole. No, ma oggi intendo dopo tutto. Sì, com'è? Stiamo cercando di gestire l'emergenza quotidianamente. L'ha detto lei in apertura, 460 mm d'acqua in 12 ore, vuol dire che insomma 460 mm, quindi sono 470 litri ogni metro quadro. Sì. Si immagini la bomba d'acqua che è scesa, insomma, solamente in un bacino imbrifero dove c'era la costruenda diga, sono scesi circa 35 milioni di metri cubi d'acqua così in un colpo. Quanti danni, sindaco? Ma ancora non sono stati quantificati, però le faccio una stima velocissima, nel senso che la diga praticamente ormai pare ci siano oltre 7 milioni, tra i 7 e gli 8 milioni di euro di danni solamente lì nella costruenda diga del cantiere. Per quanto riguarda le strade rurali, non abbiamo più una strada rurale percorribile, ci stiamo mettendo a mano, abbiamo messo in moto tutte le imprese del posto, con ruspe, terne, pale, insomma il problema sarà come pagarle. E poi insomma abbiamo aperto un ufficio, proprio abbiamo istituito un ufficio ex novo per i danni dell'alluvione, per dare risposte ai cittadini e aiutare insomma le persone. Ascolti, Deleda, sentendo un po' di suoi colleghi sindaci nei giorni scorsi, abbiamo molto parlato della questione del patto di stabilità e della possibilità di sforare, insomma, anche, mi consente l'espressione, chiedo scusa agli ascoltatori, fregandosene delle conseguenze, perché alla fine avete un pezzo del vostro territorio da ricostruire e se avete i soldi in cassa, insomma, non si può nemmeno stare appresso troppo, per quanto le regole siano importanti. Certo. Lei che cosa dice? Io dico che intanto la politica dovrebbe metterci in mano, il patto di stabilità, i nostri signori politici non dovrebbero aspettare i sindaci che lo sforino, dovrebbero avere la sensibilità e la velocità di modificarlo, perché quando si gestisce un'emergenza non si può procedere con procedure ordinarie e lo sanno benissimo, quindi il patto di stabilità devono essere loro che lo modificano, noi dal canto nostro ovviamente vedremo quello che si può fare e ci sarà sicuramente. E se il governo non lo fa, se non vi concede la deroga, il governo dovremmo pensarci noi. Sforerete comunque, sì. Per forza, perché non possiamo, noi non siamo qui per dare risposte alla cittadinanza e quindi quello faremo, sicuramente, perché la burocrazia è diventata elefantiaca, la burocrazia elefantiaca, c'è il patto di stabilità che non ci consente di spendere, è una burocrazia che è elefantiaca, quindi per ogni cosa ci vogliono 10, 20 di autorizzazioni. Grazie. E quindi insomma, una volta che si esce dalla straordinarietà, dall'emergenza, saremo imbrigliati un'altra volta. Poi questa emergenza, intanto bisogna sapere che cos'è l'emergenza e cosa si intende per emergenza, quanto dura l'emergenza e cosa possiamo fare durante l'emergenza. Se non abbiamo risposte a queste cose, veramente ci sentiamo un po' abbandonati. Grazie Deledda, buona giornata e naturalmente anche a lei buon lavoro nel suo paese Orgosolo, provincia di Nuoro. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco, torneremo come sempre con il nostro approfondimento sulla Terra dei Fuochi. Oggi sentiremo da Maurizio Patriciello, che è un prete che si batte, anche ha scritto un libro sulla Terra dei Fuochi, che commenterà il decreto varato ieri dall'esecutivo. E poi parleremo della vertenza Indesit. È arrivato un accordo nella notte, un accordo nel quale vengono eliminati gli esuberi. La FIOM ha deciso di non firmare, cercheremo di capire dalla FIOM perché. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il TAR ha sospeso il decreto di nomina della commissione che ha giudicato il metodo Stamina dopo il ricorso di Vannoni. Il ministero fa sapere che ne nominerà un'altra. Natuzzi denuncia nel distretto del Mobile di Puglia e Basilicata la stessa situazione di Prato. Col diretti contro la contraffazione alimentare a favore del Made in Italy, blocca i camion al Brennero. La legge di stabilità arriva alla Camera, pronta una risoluzione per chiedere che i soldi della Spending Review vengano destinati al taglio delle tasse sul lavoro. E veniamo come sempre a quest'ora alla Terra dei Fuochi. L'appuntamento di oggi abbiamo deciso di dedicarlo ad una persona, in realtà Don Maurizio Patriciello, che lotta da anni su questi temi, ha appena scritto un libro tra l'altro, Il Vangelo dalla Terra dei Fuochi. Ebbene, gli abbiamo chiesto di commentare il decreto varato ieri che prevede tra le altre cose il carcere per chi brucia i rifiuti abbandonati, una mappatura per capire quali terreni siano coltivabili oppure no. Gli abbiamo chiesto un commento su questo e poi gli abbiamo fatto raccontare il fatto che a Caivano in parrocchia ci sarà venerdì un incontro pubblico con il presidente della Campania Caldoro. Sentiamolo. Guardi, io sono contento perché per la prima volta il Consiglio dei Ministri parla della Terra dei Fuochi. Questo è un risultato non indifferente. Il decreto non è la fata turchina, non risolve i problemi nostri, che sono problemi immensi, però è un buon inizio. Il fatto che si potessero appiccare i roghi che a tanta morte hanno portato la nostra gente in un modo così banale, così semplice, sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno se ne interessasse, e che oggi invece diventa un reato, questo è un momento importantissimo, insomma, proprio non riconoscerlo significa essere ciechi. Poi la mappatura dei terreni. E noi sappiamo molto bene, non è che siamo degli ingenui, sappiamo molto bene, e proprio il fatto della la tragedia di Prato di questi giorni ce l'ha fatto rivedere questo sistema. Il problema è di un sistema industriale di tante industrie che lavorano in regime di evasione fiscale. Bisogna colpire alla testa, è normale. Chi è che viene a bruciare i rifiuti industriali nelle nostre campagne? Sono le fabbriche che insistono sul nostro territorio e che lavorano in regime di evasione fiscale. Andando a colpire l'ultimo anello della catena non abbiamo noi risolto il problema, però se permettete abbiamo fatto un grande passo in avanti, guarda, questo bisogna dirlo per onestà intellettuale. Il presidente della regione aveva chiesto di venire in parrocchia, avevamo tutti e due i tempi molto stretti, per cui siamo veramente, e abbiamo accettato di incontrarci alle 8 del mattino, ma è un incontro pubblico, quindi saremo nel salone parrocchiale con le porte aperte e tutti quanti sono invitati, chiunque può venire, ed è un momento importante che il presidente della regione venga a dialogare con noi. Cioè, voglio dire, noi abbiamo inaugurato veramente un tempo nuovo, guardi, questo bisogna dirlo. A me piace protestare, però per la verità sento il bisogno anche di dire grazie quando il grazie mi sgorga dal cuore. La riconoscenza è una cosa importante, cioè che Caldoro viene in parrocchia da me a Caivano e lo ha voluto lui, lo ha chiesto lui, per me è un momento molto importante di questo dialogo e anche di questa pacificazione. Guardi, proprio c'è bisogno di questa pacificazione. Così appunto da Maurizio Patriciello sulla Terra dei Fuochi. Vogliamo parlare di Indesit. È stato approvato, o meglio, insomma, si è arrivati ad un accordo, è stato scongiurato il rischio di 1400 esuberi, un accordo che la FIOM non ha firmato. Allora io saluto Michela Spera, che è della Segreteria Nazionale della FIOM e che ha seguito la trattativa. Allora Spera, io le chiedo di dirci in una battuta perché avete detto no, e poi, dato che agli ascoltatori oggi gli tocca per due volte la mia voce, la riprendo per Focus Economia. In una battuta. In una battuta, ieri al Ministero dello Sviluppo Economico non ci hanno convinto, non si è svolta una trattativa, governo, regioni, Indesit, FIM e UIM hanno impedito la riapertura del confronto e presentato un piano industriale che delocalizza impianti e produzione dall'Italia e che rischia di aiutare e sostenere solo la vendita della Indesit. Nello stesso tempo ho sentito il suo esordio in cui dice scongiura 1400 di licenziamenti. Indesit e il governo si sono smentiti da subito. Indesit ieri, a conclusione dell'incontro, ha formalizzato a FIM, FIOM e UIM nazionale la decisione di licenziare i 120 lavoratori di Brembate, Refrontolo, Bergamo e Treviso, oggi in cassa integrazione in deroga perché nel 2010 erano stati chiusi gli stabilimenti. Allora, se questi lavoratori non accetteranno il trasferimento nello stabilimento in provincia di Ascoli. Allora, spera, io la fermo, io la fermo perché ci ritorniamo su tutto questo. Io purtroppo devo dare la viabilità, io ho i tempi stretti, le do un appuntamento oggi pomeriggio, ci risentiamo per Focus Economia. Viabilità. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero. Sono appena terminati i lavori del Consiglio per l'Italia e gli Stati Uniti, dove si è discusso, devo dire, un po' di tutto, di Medio Oriente, di commercio, di libero scambio, ma soprattutto di crescita, perché la questione della crescita resta uno degli elementi chiave di cui occuparsi ed è un problema non da poco, perché ci sono posizioni diverse fra gli Stati Uniti e l'Europa, anzi fra gli Stati Uniti e la Germania, e all'interno dell'Europa fra la Germania e gli altri paesi membri. Dunque, fino a quando non si sposa un modello di crescita, beh, sarà difficile trovare la strada giusta per poter vedere crescita dell'occupazione e dell'economia. We did the IPO while we're having lunch. Ecco, avete sentito una battuta di Sergio Marchionne alla fine del convegno. Marchionne è uno dei due presidenti di questa associazione Italia-Stati Uniti. In quel caso scherzava su Chrysler, diceva, vabbè, mentre lei era qui noi abbiamo già fatto l'IPO, l'offerta pubblica, quindi il reporter della Bloomberg si era un po' agitato. In realtà su Chrysler Marchionne, a parte le vendite, che sono andate molto bene per il mese di novembre, sono state le vendite record, non ha voluto aggiungere nulla rispetto a quello che già sappiamo e ha confermato che l'IPO avverrà nel 2014. Però ecco, della crescita, della situazione politica italiana, della necessità di fare qualcosa e di muoverci, ho fatto due chiacchiere con Marchionne e ve le propongo a partire di una sua valutazione della situazione politica italiana. No, io credo che bisogna scegliere un modello che crea le condizioni per attirare gli investimenti esteri, perché il sistema da solo non ce la farà. Quindi o ci facciamo veramente, ci facciamo piacere da altri e cominciano a investire nel paese, o se no la ripresa sarà lunga. Il problema è che io, quando vedo gli investimenti esteri che stanno entrando nel paese, siamo a livelli minimi, c'è pochissima roba che sta entrando. Il problema delle riforme non è questione di quello che abbiamo fatto, è quello che ci manca, no? Lei guarda, si mette in relazione agli altri paesi, veda quello che ha fatto la Spagna per esempio in termini di riforme, si rende conto che adesso è uno dei paesi che sta crescendo, appunto perché si è reso molto più attraente agli esteri. Lavoro, ma tutto, no? Anche a livello dal punto di vista di burocrazia amministrativa, l'amministrazione, tutto, sono realtà diverse. Ecco, però c'è un paradosso. Lo teniamo anche in Spagna, siamo una multinazionale, in Spagna non abbiamo mai avuto problemi, no? Mai. No, dicevo, c'è un paradosso, cioè che se si parla in generale con gli italiani, tutti vorrebbero queste riforme, vorrebbero riforme elettorali, vorrebbero un paese più flessibile, vorrebbero meno burocrazia, e poi però tutto si paralizza. E allora lei, insomma, lei opera ai massimi, lei dialoga con i massimi vertici dello Stato, dov'è il problema? Perché tutto poi si paralizza mentre la gente forse vorrebbe qualcosa di diverso? Ma credo che ci sia una convinzione che ci sono dei limiti in quello che si può fare, cioè che il sistema è così collegato nelle parti che se non si trova una forza unanime per portare avanti qualcosa non può essere fatto. Quindi c'è sempre la paura dell'incognito, no? Invece una delle cose che abbiamo imparato noi gestendo il business è che delle volte dobbiamo prendere dei rischi e andare avanti, no? Poi uno lo chiami bluff, lo chiami quello che vuole, ma bisogna, le cose bisogna pure farle. E cercando di vedere le cose, diciamo, da un punto di vista più, visto che lì si rallenterà, da un punto di vista del modello competitivo, l'America cresce, l'occupazione cresce, le cose vanno bene, l'Europa è stagnante. Ecco, cosa dobbiamo fare? Non è tutta l'Europa che è stagnante, c'è una parte dell'Europa. La Germania va benissimo. La Germania va bene, sono altri paesi che stanno crescendo, no? Noi siamo sfortunatamente uno dei pochi che non sta crescendo, l'abbiamo visto anche dai dati di... il livello di disoccupazione del paese, il numero di giovani sotto gli anni 30 che non trovano lavoro, cioè sono numeri preoccupanti che dovrebbero dare uno sprono appunto al sistema ad aggiornarsi e a rendersi competitivo. Io l'unica cosa che chiedo, lo sto chiedendo da anni al paese, è che ci adattiamo alle regole internazionali di un mondo globale. Se lei vede questo paese qua in cui ci troviamo, è una filosofia completamente diversa, ma proprio non solo diversa, è proprio opposta. Quindi sono due gestioni di realtà economiche su due principi completamente diversi. Ognuno ha i suoi pregi. Questo cresce al doppio del mercato tedesco, l'abbiamo visto dai numeri, no? E noi siamo rimasti tra i due e non sappiamo cosa fare, siamo rimasti condizionati da tutto. Da tutto e da tutti. Credo che sia il momento che l'Italia si svegli e dica, decida cosa vuole fare, no? Ma la deve scegliere l'Italia, è una scelta che deve fare l'Italia. Quindi magari sfidare la Germania, non andare... di sfidarla, di fare una scelta, non mi interessa, poi magari ci abbiniamo, ma deve fare una scelta molto, molto chiara e andiamo in questa direzione qua. I compromessi in questo momento qua non valgono niente. Senta, lei oggi ha detto che avete avuto i migliori risultati per il mese di novembre della Chrysler. Ecco, con questi migliori risultati la Chrysler sarà in una posizione più solida e quindi Weber cosa farà? Qual è una sua posizione su questa vicenda che continua? C'è un'espressione in inglese che non so qual è in italiano, one swallow does not make a summer. Cioè una rondine non farà primavera. Cioè la valutazione è basata su un track record, su un'aspettativa per il futuro che è diversa da fare il mese di novembre. Sono contento di novembre perché riflette tutti gli sforzi che abbiamo fatto, quindi siamo il marchio americano che è cresciuto più degli altri nel paese. È una soddisfazione enorme, i ragazzi stanno facendo un gran lavoro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete trovarli su america24.com, scrivetemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, in questo convegno si è parlato di crescita, si è parlato di miti americani, si è parlato anche di auto in qualche modo. E dunque vi propongo un grande classico, American Pie di Don McLean, la grande torta americana. Long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver, bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. Da Washington è tutto, Simone, ti restituisco la linea, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. E grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo tra un attimo col giornale radio.